Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 21 febbraio 2015, pagamenti via smartphone e boom anche in Italia. Dal biglietto per la metro a quello per il cinema, dalla spesa fino alle bollette. Anche in Italia sono sempre di più le opportunità per acquistare beni o servizi attraverso l'uso del cellulare, grazie al mobile payment. Grazie a quest'arma il nostro paese ha fatto un vero balzo in avanti nei pagamenti elettronici. Fino al 2012, infatti, l'Italia poteva vantare un'altissima diffusione di telefoni mobili con 48 milioni di utenti, ma una ridotta diffusione delle carte di credito. La crescita fino a 25 milioni di dispositivi degli smartphone con tecnologia per il mobile payment ha fatto crescere fino a 10 miliardi il fatturato dei pagamenti via telefono. Fin qui la notizia del 21 febbraio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Una ricerca degli osservatori ICT del Politecnico di Milano rivela che l'Italia può recuperare terreno sulla limitata possibilità di acquistare beni e servizi con il telefono mobile. Alessandro Perego, docente di gestione dei sistemi logistici e produttivi e di logistica integrata al Politecnico di Milano. Il mobile payment e mobile commerce di contenuti digitali è una realtà già esistente e matura. Sono circa 500 milioni di euro già nel 2011 e saranno in crescita negli anni a venire. Poi c'è la componente del mobile commerce e payment di prodotti e servizi che nel 2011 vale circa un'ottantina di milioni di euro e che nel 2015 potrà crescere molto significativamente a raggiungere quasi il miliardo di euro. Poi esiste tutto il mondo del cosiddetto mobile proximity payment, ossia pagamenti mobili di prossimità, in cui il cellulare di fatto verrà usato per emulare una carta di credito. L'acquirente passa il cellulare in corrispondenza di un POS contactless e in quell'occasione conclude di fatto il pagamento. Il mondo del pagamento mobile di prossimità è un mondo che va ancora sviluppato. Nel 2015 ci aspettiamo infatti che circa 10 miliardi di euro di transato sia gestito attraverso il mobile payment di prossimità, che ci siano 25 milioni di cellulari dotati di questa tecnologia, che si chiama Near Field Communication in gergo, e che ci siano almeno 300.000 esercenti abilitati a ricevere pagamenti con questa modalità. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.